30 secondi alle 8 del mattino. Questa è la seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Puntata 140. La tua colazione rock. Buona giornata dalla nostra squadra. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Squadra composta dall'Ariele che vi saluta, Spadino in regia, Roberto Friccantoni di là in redazione a preparare il test attitudinale di quest'oggi. Iniziamo una seconda ora infuocata di questa puntata 140 ringraziando una segnalazione milanese. Ce ne eravamo occupati proprio ieri di questa cosa delle luminarie scarse, ma soprattutto di un Corso Buenos Aires stranamente senza addobbi natalizi. Manolo ci segnala che, guarda un po' te, chiedi e ti sarà dato, ieri sera passando da Buenos Aires non ho potuto fare a meno di notare le nuove luminarie fatte installare dalla signora Moratti e mi chiede, significa che possiamo ancora aspettare un Natale rock o no? Manolo, cioè, vabbè, ormai la macchina di pane, burro e rock and roll è partita e non ci possiamo più fermare. Se abbiamo deciso che facciamo un Natale rock, lo si fa, ormai è andata così, Però anch'io ieri sono passato da Buenos Aires e non le ho mica viste. Strana sta cosa, Va bene, ne accadranno delle belle fino alle 9 qui a Rock FM. Il signor Trehorn dice che ha dovuto farti allontanare dalla festa che dava in giardino perché eri ubriaco e molesto. Il signor Trehorn tratta gli oggetti come donne, lo sapeva? Il signor Trehorn fa girare molti soldi in questa città. Tu fai girare solo le palle. La nostra è una graziosa cittadina balneare e il mio obiettivo è mantenerla tranquilla. Perciò ti chiarisco una cosa. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini, Lebowski. Col tuo cognome da mezza sega. Con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega. Mio caro Freak, lei sarà pure il nostro rocker di riferimento, ma abbiamo pure un ragazzino di riferimento. Ah, questo è interessante, questo è notevole, perché l'aggancio è link con le giovani generazioni. E si ricorda come si chiama? Ah, sì, purtroppo. Non si disperi. Il nostro Francè dovrebbe essere in linea. Tra l'altro a quest'ora dovrebbe essere già anche a scuola. Pronto, la mina Francè? Vagante. Mina vagante. Ecco, Francè, dove sei? Buongiorno. Di bello? Scuola, sto a scuola. Ma bravo, bravo, devo raccontare una cosa, mi è successa una cosa strana. Sei un po' agitato, Francè. Un pochetto. Allora, praticamente, sì. No, oggi? Sì. Calmati. Allora, oggi? Sì. Niente. Allora, oggi sono andato a scuola, sì. No? E mi ha accompagnato Pamela Anderson. Ah, la tata. Pamela Anderson. La tata marchigiana. Quella che ti ha insegnato a parlare così. Metal, sì, esatto. E il metal, esatto, perché metal. Ecco lei che ha insegnato. Quanti di noi hanno avuto una tata che ci ha insegnato il metal? Avrebbero voluto avere una tata come Pamela Anderson? Ma perché? Pure tata vostra? No, dicevo. Ah, quanti di noi avrebbero voluto avere una tata? Ci sarebbe piaciuto avere Pamela Anderson. Non mi frega un cazzo, non mi frega. E allora che ha combinato? Dici un po'. Allora, mi ha accompagnato lei, perché mamma e papà devono andare al lavoro, sì. E poi hanno paura, no? Che dopo se gli faccio i scherzetti, no? Sì, sì, allora sì. Ho accompagnato Anderson Marinelli. Sì. Allora che è successo? Mi porta a scuola, no? Fuori da scuola si ferma un attimo, sì. Si vede un angoletto, no? E mi fa. Ma come la voce? Ma come? Ma cosa ride il Freak? No, la voce non mi fa niente, manco c'ha le barche, capito? Ma hai fatto bene, stai. La voce non è, attacca la voce. Allora no, io ho detto, no, non ti tocca la voce. Perché a un certo punto, no, si è tirata giù la gonna. Ma, no? Ma era una gonna di pelle con le borchie? No, era vestita normale, a me non interessa, a me fa metal. Solo il metal. Si è tirata giù la gonna? Sì. No? E praticamente c'era una cosa strana in mezzo, no? Una cosa strana. E mi fa, guarda, io ho detto, ma quelli sono i capelli di Slash dei Guns N' Roses. I capelli di Slash dei Guns N' Roses. Suoi allora, punti di... Ognuno ha i suoi punti di riferimento. Allora mi vergognavo un po', siccome no, Slash, no, c'ha sempre il cappello, sì. Allora gli ho messo il cappello e sono andato a scuola. E pure la sigaretta, magari. Sigaretta, sì, la sigaretta a me. Ah, certo, sì. Io non le posso, io non le so queste cose perché sono piccola. Hai ragione. Qui c'è lo zampino del papà che ti vuol far crescere. Esatto. Maschio. Da uomo vedrai, Francesco, che prima o poi anche tu apprezzerai quei capelli di Slash. Esatto, e quelle protuberanze, sì. Dette pocce. Ma non sarà mai meglio una chitarra metal, no, guarda, Francesco. Sono due generi diversi. Ci sentiamo. Diciamo. Tra qualche annetto. No, una cosa. Dimmi. Adesso va bene tutto, ma che ci facevano i capelli di Slash in mezzo alle gambe di Pamela Anderson Marinelli? Guarda, con questo potremmo anche chiudere il collegamento, Francè. Torna è in classe. È una buona domanda. È un'ottima domanda. Complimenti. Alcune domande non hanno bisogno di risposta. Ciao, Francè. Sei troppo avanti, Francesco. E me, che c'è? Yeah. cuore, ale ale ale, oh oh. Che bella notizia. Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete su Rock FM. Ragazzi, che bello, ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Coffee smell, lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smell, I'm lilac skin, you're flaming me. I'm only come il miele, Jeff Buckley, e questa Everybody Here Wants You, puntata 140 di Pane, Burro e Rock and Roll, che prosegue con i miei momenti preferiti, il contatto con voi là fuori. E la telefonata è interessante, perché riceviamo un SMS da Deborah in partenza, direi alle 10, quindi tra neanche un paio d'ore scarse, per Londra, ma vediamo di farcelo raccontare da lei. Dovrebbe essere in linea. Ciao Deborah. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, ci sono in realtà troppe cose di cui parlare con te, perché sei insegnante. Sì. A. B. Hai una figlia di 13 anni che ascolta rock and roll. e tutti i miei studenti che sono qui insieme a me. Ma siete in pullman tipo? No, c'è il papà, un gentile papà che ci sta accompagnando all'aeroporto, Marcello. Ma tutti in una macchina? Abbiamo un pulmino. No, fighissimo! E allora saluto al pulmino in partenza per Londra. Tra l'altro, prima segnalazione che vi faccio, qualche giorno fa un'amica reduce da Londra, qualche weekend fa, le hanno rubato la patente da vero rocker. L'ho sentita. State attenti, perché voi la patente da vero rocker non l'avete ancora, perché non siamo ancora venuti in Toscana. Però... Okay. Veniamo noi a Milano, okay. Ce la veniamo a prendere. Occhi aperti. Come se non bastasse, così, tra l'usco e il brusco, Deborah ha partecipato a un video di Ozzy Osbourne. Certo. Dici come hai fatto entrare un video di Ozzy. Allora eravamo a Hammersmith Odeon. Sì. Era la seconda serata, il secondo concerto, e niente, dopo poco ho visto il video e mi con Ozzy, con il mio foulard a cui... Abbiamo anche un po' di problemi di telefono con Deborah, se non sento male. Mi senti, Deborah? Io ti sento, ecco, benissimo. Perfetto. Quindi era un concerto, un'esibizione live, e vi hanno ripreso. E mi hanno ripreso, hanno ripreso oggi con il mio foulard, e hanno ripreso oggi che mi... No, okay. Tra l'altro voi non potete immaginare, in fuori onda, Deborah... L'abbiamo contattata a un altro telefono al quale non si sente perché ha fatto la doccia con te, il telefono, ricordo bene? Sì, sì, lui è molto, è sempre con me il telefono. Si è perso un pezzo della telefonata. Ozzy ti ha preso il foulard? Sì. Ma, no. Perché Ozzy ti ha preso il foulard? Ma perché gliel'ho dato. Ma guarda, Deborah, è vero, le cose tornano. Quindi se vedete un video con Ozzy con un foulard è di Deborah. Breaking all the rules, va bene. Posso chiederti di abbassare il volume della radio? E se c'è lì, da quelle parti, Elena, se me la puoi passare? Subitissimo. Guarda. Ciao. Elena, buona giornata a tutti. Anche a te, buon viaggio, facci sapere come va. Come se non bastasse, la mamma partecipa ai video di Ozzy Osbourne, la figlia tredicenne si fa dare i plettri da Carlo Santana. Sei con noi, Elena? Sì. Eccoti qua, benvenuta a Pane, Burro e Rock and Roll, come va? Bene. In partenza anche tu ti sei imbucata nella gita della mamma? Sì. Sì, in realtà sì. È la prima volta che vai a Londra? No. Ah, ci sei qui. Quante volte ci sei già andata, Elena? Sette. Mamma, qui storia di mamma fricchettona. Qui c'è puzza di mamma fricchettona. Senti un po', cos'è sta storia dei plettri di Carlo Santana? È che siamo andati al concerto di Santana e mi ha dato 5 plettri. Adesso spero che gli amici che stanno ascoltando comprendano cioè alla mamma Ozzy piglia il foulard e alla figlia Carlo Santana dai plettri. Ma perché te li dà? Ma poi sono montata 2 volte sul palco. Così? Di Carlo Santana? Perché? Così? Perché stiamo sempre in prima fila, allora a forza di vederci. Ormai vi riconosce. Sì. Quando ti dice Elena dai vieni su, quindi hai 5 plettri di Santana. Senti, sì. Secondo me affronteremo l'argomento più avanti. Intanto gustatevi la gita a Londra e ci sentiamo quando tornate. Va okay. Bene. Mi saluti tutti quelli del pulmino. Ciao pulmino! Ciao! Ma ci sono tutti i bambini dentro? Sì. Mi fai un saluto collettivo? Ciao pulmino! Ciao! Ciao ragazzi, a presto, buon viaggio! Beh, il saluto collettivo dal pulmino ci voleva, Preparatevi per il test attitudinale! La colazione di pane, burro e rock and roll prevede nel menù un test attitudinale. Le va, maestro? Naturalmente sì. Se rispondete esattamente, avete accumulate 2 punti per la vostra patente da vero rocker. Eh sì, questo è il momento caldo della trasmissione, il momento hot di pane, burro e rock and roll, perché vi permette di ottenere 2 esatto, importantissimi punticini per la vostra patente di autentico rock. Ripetita, Juvent. Esatto. E andiamo a parlare di Pink Floyd. Ah, che bello. Sì, andiamo sì, a parlare nello specifico del nome Pink Floyd. Il fluido rosa. Sì, sì, voi là fuori sapete perché il buon Roger Kidd, detto Syd Barrett, scelse come nome del gruppo proprio Pink Floyd. 3 soluzioni possibili. Ipotesi A. Pink Floyd è il nome col quale si identificano certe allucinazioni dovute all'assunzione di sostanze allucinogene. Nello specifico, le Pink Floyd si presentano quando il viaggio psichedelico vira principalmente sul colore rosa. Altre allucinazioni con colori differenti prendono il nome del colore portante. Abbiamo le Red Floyd, le Green Floyd, eccetera, eccetera, risposta eccetera. Risposta psichedelica, allucinogena, è quella giusta oppure? Risposta seconda, ipotesi B. Pink Floyd è il nome di una rosa particolarmente spinosa che nasce principalmente nelle zone del Mar Caspio. Era il fiore preferito da Syd Barrett. Ah sì? Oppure? Terza ed ultima ipotesi, risposta C. Pink Floyd è l'unione dei nomi di 2 celebri bluesmen molto amati da Syd Barrett, Pink Anderson e Floyd Dipperboy Council. Hai capito? Qual è la risposta esatta? La A, la B o la C? Come al solito, la soluzione ve la diamo tra poco, e cioè la risposta a poco dopo.